as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi puntata dedicata all'arte, alla cultura, ad una battaglia. La battaglia che stanno facendo tutti quelli che lavorano con l'arte, con la cultura, con la danza, con lo spettacolo, che hanno visto negli ultimi mesi questo governo tagliare. Stiamo parlando di miliardi che vengono tolti i finanziamenti per chi fa arte. Questo movimento che si chiama Vogliamo Tutt'altro, composto da diversi collettivi, e oggi abbiamo intervistato le compagne del Paleotto, che noi conosciamo benissimo, del Pane delle Rose, anche la Decina Fugico, compagni che stanno al Parco del Paleotto, Ecodanza. Abbiamo intervistato loro, che fanno parte di questo movimento, e sentiremo Roberta Camila e la Martina Del Prete, che è presidente di Ecodanza, ci racconteranno un po' di questa vertenza. Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. E che se cado in mezzo al mare, non mi lascio annegare. Prometti che restiamo vivi, anche mentre invecchiamo. Che continuiamo a far cazzate, che non ci uccideremo. E il nostro corpo sta cambiando, e sta cambiando anche il mondo. Ma c'è qualcosa di importante che non riesco a vedere. E sento crescere da dentro un terremoto nel cuore. E voglio aprire ogni confine. E voglio aprire ogni confine, un casino. Volevo dirti tante cose, ti ho solo stretto le mani. E le parole sono morte, sbranate dai pesce cani. Abbandonato alle correnti, fottuto dalle emozioni. E tu non fingersi normali, e tu non fingersi normali, e fa male. Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino, fidati di me, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino, ma fidati di me, è tutto un casino, ma fidati di me. E spariranno i nostri corpi, e cambierà chi c'è intorno. Qui dentro invece resta tutto, e no, non è mai cambiato. E io lo vedo che sei bella, anche se tu non ti piaci. La bella copia di te stessa, la bella copia di te stessa, sì questa. Volevo dirti tante cose, suoneranno banali, che anche se sono io il peggiore, ha sempre vinto l'amore. Anche se a volte un buon delirio, ti dico il mio desiderio. Voglio dimenticare tutto e risvegliarmi bambino per sempre. Con te, con te, con te, con te, con te, sì con te. Con lei e con te, con lui e con te, col mondo e con te, sì con te. È tutto un casino, tutto un casino, tutto un casino, ma fidati di me. È tutto un casino, ma fidati di me. Fidati di me, è tutto un casino. soltanto dare tutto, regalare, ringraziare, restituire quest'amore che sento muoio dentro. Allora, oggi siamo qui, siamo arrivati noi del Pane Rose a Rastignano, al Paleotto numero 11, il centro culturale di Ede, dove ha la sede principale delle attività che fa Ecodanza. Ci siamo già sentiti, abbiamo già parlato di loro quando avete inaugurato la sede a zona Mazzini, abbiamo parlato di quello che fate, delle cose importanti date alla città di Bologna, soprattutto la zona Mazzini, che era la zona San Lazzaro, quella zona lì. E però oggi siamo qui per parlare, purtroppo, di qualcosa di non bello, perché fondamentalmente l'altra volta eravamo felici, insomma, che i lavoratori avessero questo spazio in cui poter fare cultura, questa biblioteca in cui voi avete un ufficio, qui insomma noi lavoratori potevamo venire e scoprire tutte le cose interessanti che voi fate. Io stesso faccio un corso di somatica, nella mia schiena da operare al metalmeccanico mi dà una mano, anzi invito tutti quelli messi come me spaccati da 30 anni di fabbrica a andare a fare il corso di somatica, fa bene, fidatevi. Però oggi siamo qui per parlare purtroppo del fatto che anche voi, lavoratrici, lavoratori dello spettacolo, dell'arte, della cultura, siete entrati sul piede di guerra. Da luglio si è creato questo collettivo, questo che non lo definiamo così, però ha tante, ho visto, sentito vari video su YouTube, ho notato che si parla di collettivi, associazioni, unione di lavoratori, comunque lavoratori dello spettacolo che sono scesi sul piede di guerra e non hanno nessuna intenzione di cedere a questa angheria che questo governo vi ha fatto, che tu poi ci spiegherai, Roberta, anche se anche tu Martina ci racconterai dal tuo punto di vista, questo governo che ha dichiarato guerra a tutti i lavoratori, ma in questo caso vi ha dichiarato guerra a voi lavoratori dello spettacolo. Questo governo non ama lo spettacolo, soprattutto lo spettacolo quello diciamo dei mass media, quello classico, ma odia proprio lo spettacolo della cultura, quello che spesso, come già abbiamo parlato spesso in passato, noi si nutre di finanziamenti, perché chi fa cultura, chi è alternativo, chi produce cultura, spesso le risorse sono dovute a finanziamenti, e lì questo governo vi ha fatto del male. Racconta Roberta, cosa è successo? Sì, grazie di questo spazio. Diciamo sì, noi in questo momento ci sentiamo portavoci di questo movimento, che è un movimento nazionale, quindi è proprio capillare in tutte le città, che si chiama Vogliamo Tutt'altro, che sono già un paio d'anni che aveva cominciato a muoversi e a unirsi per delle rivendicazioni appunto per i lavoratori dello spettacolo. E da luglio cosa è successo? Luglio sono usciti i finanziamenti triennali per tutto il comparto della danza, del teatro e delle arti performative, e l'uscita di questa triennalità, quindi vuol dire i finanziamenti pubblici a compagnie, festival, corsi di formazione per i prossimi 3 anni, quindi insomma è per noi che lavoriamo appunto con i finanziamenti pubblici è una parte molto importante. E cosa è successo? È successo che c'è stata una chiarissima presa di posizione negativa, quindi hanno tagliato quasi tutte le giovani, e non solo giovani, in realtà, che si muovono nell'ambito della ricerca, nell'ambito delle arti performative e nell'ambito diciamo di tutto quel lavoro che nel settore si chiama a rischio culturale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se fai uno spettacolo di comici che vanno in televisione, è ovvio che il teatro è pieno, puoi fare il biglietto a 20 euro, ci vanno tutti, perché è considerato un po' un lavoro mainstream, un lavoro più tradizionale. Certo che se porti avanti un discorso sulla ricerca, un discorso sul sostegno ai giovani artisti, certo questo è una progettualità che va sul rischio, nel senso che non sai, non è che puoi avere una ricaduta immediata di quello che fai, hai una ricaduta a lungo termine, cioè crei appunto A, lavoro, B, sostegno culturale a tutta la cittadinanza, ma questo non può essere quantificato. E invece cosa ha fatto il Ministero? Si è basato solo ed esclusivamente su un valore quantitativo, e quindi quanti biglietti, quanti finanziamenti, diciamo, privati gli organismi sono in grado di recuperare, quindi non solo quelli pubblici, fino ad arrivare anche a delle cose abbastanza squallide, cioè che sono stati, diciamo, ripresi i progetti che usavano la schwa inclusiva, dicendo che per loro erano illeggibili e incomprensibili. Quindi diciamo che le azioni che sono state fatte sono una avvisaglia molto dura e molto importante da tenere sotto controllo, perché vuol dire proprio spostare l'asse e da qui in avanti, infatti l'hanno detto anche i commissari che si sono esclusi, cioè sono usciti dalla commissione, hanno detto da qui in avanti sarà sempre peggio. Quindi noi ci alleiamo assolutamente a questo movimento, nonostante la nostra scelta di compagnia e di associazione è sempre stata quella di non chiedere i finanziamenti ministeriali, proprio perché c'è sempre stato questo gap tra qualità e quantità, e noi sappiamo benissimo che la qualità di un certo tipo di prodotto artistico non è quantificabile, e quindi noi di stare stretti dentro quel rapporto non ci andava bene. Quindi siamo qui a difendere queste compagnie, moltissime nostre amiche che si sono viste da un giorno all'altro togliere i finanziamenti per 3 anni, e questo vuol veramente dire che forse la sopravvivenza per loro sarà difficilissima. Noi ci basiamo più su delle realtà locali, comune, regione, fondazioni, quindi io credo che noi possiamo tranquillamente pensare, visto che siamo in una regione virtuosa, di sopravvivere comunque anche i prossimi anni, ma ciò non vuol dire che la battaglia non vada fatta tutti insieme, insomma. Allora, quello che ho notato è che la cosa che mi è piaciuta, che negli appelli ho sentito vari comunicati, cioè ho letto alcuni comunicati, ho anche visto alcuni video in cui c'erano degli interventi, diciamo, dei tre leader di quelli che sono intervenuti in questa vertenza nazionale, che in questo momento è chiaro che loro non vogliono rimanere solo sul campo della cultura e dello spettacolo, si rendono conto che questo governo in realtà l'attacco è generale, si rendono conto che in questo momento in Italia c'è anche il problema della Palestina, e loro dicono che l'avvertenza è collettiva, è totale, è chiaro che dobbiamo cercare di unificare le lotte. Erano presenti anche a Genova quando c'è stata la manifestazione per la flottiglia, insomma è chiaro che c'è un interesse, queste persone chiaramente hanno capito che il problema è generale. C'è la guerra, bisogna spendere 600 miliardi per le armi, 700 miliardi per comprare energia a alto prezzo con gli americani, ed è chiaro che poi c'è una voglia di colpire tutto quello che fondamentalmente questo governo sente lontano, e tra cui anche i lavoratori e la lotta dello spettacolo, sappiamo benissimo, sono odiati da questo governo, soprattutto quelli che fanno cultura, perché però la cultura è la sinistra fondamentalmente, la vedono così. Sì. Io spero che questa cosa, come la pensate voi? Cioè l'unificazione delle lotte, oggi ci saranno delle manifestazioni da fare, ci saranno delle battaglie, voi siete tutti iscritti alla CGIL, quello che ho capito io. Noi personalmente sì, ma la maggioranza sì, lo sono, anche perché è l'unico sindacato comunque che si sta ponendo in dialogo con il nostro settore, che, come dico, è un settore assolutamente di nicchia, cioè le arti performative, la ricerca culturale, la ricerca teatrale, musicale, cioè sono sicuramente una nicchia, una piccola parte di tutto il mondo appunto teatrale, di spettacolo che c'è in Italia. Diciamo che sicuramente noi siamo, dico noi perché mi sento parte appunto di questo movimento, siamo sicuramente delle realtà che riflettono e che creano un movimento intersezionale, ma perché l'intersezionalità è la base in questo momento di una... è l'unica possibilità, l'unica base possibile su cui costruire sia un fronte di, di dissenso e di lotta, ma anche per vedere una possibilità di un futuro leggermente diverso da quello che appunto il capitalismo magari ci sta proponendo. Quindi anche appunto tutto il discorso sulla quantità a discapito della qualità, tutto il discorso sul quello che sta succedendo a noi, in realtà sta succedendo all'università, sta succedendo in tantissimi altri settori sociali. Quindi certo, a noi preme in questo momento, è molto chiaro, la sopravvivenza di realtà come le nostre, che lavorano ai margini e che lavorano ai margini anche del pensiero, proprio per riuscire a generare un pensiero diverso. E però non si può appunto non essere, diciamo, attenti al fatto che dividere, ci sono frasi epiche, divide e t'impera, quindi dividere non funziona, funziona solamente a rendere meno forte il messaggio e meno forte la lotta. Quindi l'intersezionalità è proprio un discorso molto più ampio, filosofico, che non stiamo qui a intrecciare adesso. Quindi sicuramente cerchiamo e vogliamo a tutti i costi agganciarci ad altri settori che in questo momento si stanno muovendo, senza neanche parlarne del concetto e dell'aiuto alla flottiglia e alla Palestina, perché questo mi sembra veramente quasi scontato. E però appunto ci sono tanti altri settori, tra cui l'università, tra cui la ricerca, tra cui ma anche solo la sanità pubblica, che bene o male, cioè, i problemi sono quelli. Cioè, se parliamo di profitto, se parliamo solo di profitto, certo ci sono dei settori che muoiono, non c'è dubbio. Martina, io quando ho visto questa avvertenza, no, mi sono ricordato delle tue parole di donna lavoratrice, giovane, insomma, che guardava al futuro nel tuo mondo dello spettacolo. È anche un attacco a voi donne lavoratrici, come donne anche dello spettacolo, perché è chiaro che colpiscono, non è che gli uomini non esistono in questo mondo, ce ne sono tanti, però io l'ho vissuta anche su questo aspetto. Anche le donne sono le protagoniste di questa avvertenza. Io ho notato che, non è, ripeto, non ci sono solamente donne, però in questa avvertenza del lavoratore, delle lavoratrici dello spettacolo, le donne hanno, io mi ricordo che tu mi dicessi, insomma, noi come donna c'è la difficoltà doppia vivere in questo nel mondo precariato del lavoro dello spettacolo, che poi alla fine è comunque precario. Beh, sicuramente la questione di genere e di essere una donna lavoratrice nell'ambito dell'arte performativa contemporanea mi fa ricadere in una categoria di marginalità. A me, come tantissime altre persone lavoratrici, è un po', diciamo, il discorso che quindi può essere legato a questa idea e intenzione magari del governo di omologare, di andare in un'unica direzione, può centrare col fatto che tutte le marginalità e tutte le figure comunque in un qualche senso minori vengono schiacciate chiaramente da una posizione dominante, da delle condizioni privilegiate che sono un po' quelle che poi stanno avendo il sostegno in tutti appunto gli ambiti che, di cui stavamo parlando, da quello prettamente culturale, quindi come contenuti, dalle modalità in cui si fa cultura, spettacolo, azione comunque sociale in generale. Quindi diciamo che forse marcherei soprattutto questa consapevolezza rispetto alla marginalità e rispetto al fatto di rappresentarla e di essere a rischio in quanto tale. Poi chiaramente ci sono comunque tanti altri privilegi nell'essere in questa parte del mondo, nell'essere comunque appunto in grado di poter dare la mia voce, quindi insomma, di non essere ancora censurate in modo collettivo, quantomeno, o non in modo comunque così evidente. I altri contenuti rispetto al femminile possono forse anche, diciamo, avere a che fare con quello che sta accadendo rispetto al non far emergere invece tante problematiche che riguardano la società, quindi il rapporto per esempio tra maschile e femminile, il rapporto rispetto all'identità di genere, quindi non solo a livelli di conflitti, di situazioni magari di violenza di genere che forse questo governo ha un po' una tendenza a tacere o comunque a non mettere in primo dibattito, perché vorrebbe dire parlare dell'educazione sentimentale, dell'empatia, della relazione in quanto temi proprio educativi, cioè di base di una società civile, oltre a tutto appunto la questione anche che riguarda invece al riconoscimento delle diversità anche di genere, appunto come possono essere le rappresentazioni dei movimenti per esempio LGBTQ+, che sicuramente questo governo credo non abbia un interesse a sottolineare, anzi forse ha una tendenza proprio ad abolire, a nascondere e a non legittimare in quanto esistenti e manifestazione di una complessità e di una situazione che riguarda tutte e tutti noi personalmente proprio. Io gli ho fatto queste domande perché, conoscendomi un po', no? Vedendo anche quello che fate, fate un sacco di corsi di danza, soprattutto, ma contemporanea anche altro, e in cui vedo queste ragazze che iniziano con te, con Roberta, questo percorso, no? Davanti a una situazione del genere, in cui c'è un'avvertenza in atto, in cui un governo che ti sta dicendo, guarda che se tu fai un tipo di arte particolare, che è anche di protesta, perché la vostra, cioè voi mettete degli argomenti importanti in quello che fate, nelle vostre, cioè non sei finanziata, non sei aiutata, cioè io voglio, come dice Roberta, che tu entri in un mondo di mainstream, che fai la ballerina davanti dietro un comico nei spettacoli, no? Di satira così politicamente corretta, oppure fai la, insomma, no? Le piume, no? Da bagarino, modello Berlusconi, cioè è quello che mi fa riflettere, ti ho fatto questa domanda, è quello che io vedo, no? Cioè come se volessi indirizzare la società e dunque anche il mondo femminile andare verso un arretramento, cioè questo che mi spaventa. Sì, sicuramente questo, adesso non so, cioè il ragionamento, la riflessione che tu hai innescato mi ha portato al lavoro sul corpo e alla consapevolezza che il nostro corpo naturale è un corpo culturale e quindi tutto il lavoro che si fa abituarsi a leggere i saperi del corpo, allenare anche la consapevolezza corporea è un discorso assolutamente politico. Cioè non è un discorso che riguarda soltanto l'ambito del, come dire, benessere e del concepire il corpo come casa in quanto appunto biologicamente la sede, cioè, certo questo sì ovviamente, ma riconoscere anche quanto questa relazione che noi instauriamo con il nostro essere al mondo, con il nostro praticare il corpo, ha un significato politico e ora più che mai forse l'arte performativa sta cercando proprio, soprattutto quella di ricerca, appunto quella sperimentale, di parlare di corpo politico e di trasmissione di visioni, di messaggi e di azioni evidenti che siano proprio delle appunto manifestazioni politiche. Allora, io grazie di tutto, vi ringrazio tutte e due, questa avvertenza andrà avanti purtroppo perché questo governo sicuramente, forse anzi ci saranno anche altre sorprese, mi immagino che questo governo continuerà visto che ha una politica chiara di armare questo paese e andare verso un sistema di guerra, spero che ci siano delle lotte che vedano tutti i lavoratori di tutti i campi, che spesso qualcuno mi contesta che parlo solo di metalmeccanici, come vedete non è vero, lo dico a chi mi critica. E sono contento di aver fatto questa intervista e ci vedremo nelle piazze a contestare contro questo governo, sciopero generale per la Palestina e contro la guerra, perché i soldi non li vogliamo nelle armi ma li vogliamo in arte e cultura e salari dei lavoratori. Mi sento perso in questo vento caldo, avrei bisogno di posare il caldo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. I notti fammi fare un tiro, dalla bocca tu espiri in giro. Entro solo le boccate, so che perde il senso del tempo, lo spazio è legato. Ma tu, passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso. Tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby, escucia. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su giunto il momento di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontano. Se le guardie ti fermano, scappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso. Intanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a Parigi. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto giro le una. Se fumare è una scusa per restare con te. Caso, ma mi pare alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Tu dove passi li distruggi, cliché. Per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami, forte fila quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate. Ste regole chi cazzo le ha inventate? Stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette, col taccanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come invalidi, scusa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto giro le una. Se fumare è una scusa per restare con te. Scendo dai becchi, ci sono troppe scale. Salgo su da te, intanto gira le una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale. E la municipale che ci fa ridere. Allora, abbiamo ascoltato Roberta e Martina del Paleotto, le compagne che ci hanno raccontato di questa vertenza. Vogliamo tutt'altro, una vertenza importante. Il Pane Rose sostiene tutti i lavoratori dell'arte, della musica e dello spettacolo che sono da luglio in agitazione, in sciopero. Tutto quello che è successo nelle piazze c'erano anche loro sempre presenti, sono stati tra i primi. Chiaramente Roberta ha spiegato come una cosa che è trasversale, non c'è il problema solamente dell'arte, ma molto più ampia la vertenza, e chi lavora nell'arte e cultura sa benissimo che l'attacco è verso tutti i lavoratori. Martina ci ha spiegato come effettivamente, come donna, chiaramente qui si rischia di essere colpiti due volte, anche sul proprio corpo. Questi indirizzi che questo governo vuole dare anche all'arte per avere i finanziamenti, sta spostando l'arte verso l'abominio, verso qualcosa che non è arte, non è cultura. Purtroppo la destra o l'estrema destra di arte, come sempre, come ne parla la storia, non hanno mai capito nulla. Quando la propaganda della loro arte è veramente devastante per i cervelli delle persone, e torniamo indietro veramente di tanto. Ecco, io sono contento oggi di aver parlato con le compagne di questo movimento. Noi vogliamo tutt'altro, speriamo che vada avanti questa vertenza insieme a tutte le altre vertenze. Il 25 di ottobre saremo in piazza a Roma contro questo governo, anche insieme a chi lotta contro i tagli ai finanziamenti dell'arte. Ecco, un saluto e ci vediamo presto.